invece prima c'è il problema della base, poi proprio pensavo di fare basta. Sì, è vero. La figa c'è da fare. Ma se no un altro roll. Cosa? Thank you. Okay.